Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo parlato altre volte qui a Smart City di crowdfunding. L'idea di fondo è che grazie alla rete oggi sia possibile raccogliere un gran numero di piccole donazioni o di piccoli finanziamenti finalizzati a sostenere un progetto, a finanziare lo sviluppo di una nuova tecnologia, di una startup, oppure a sostenere una buona causa. Tra le formule di crowdfunding ce n'è una emergente e molto promettente, ed è quella che vede la centralità di una figura nuova e direi molto contemporanea, il personal fundraiser. E noi naturalmente ne abbiamo uno al telefono, il dottor Antonio Brienza, pediatra di Cantù, tra l'altro curatore di un noto sito sulla pediatria, ed è Brienza uno dei membri più attivi di Rete del Dono, che è una delle piattaforme di maggior successo in questo campo. Buonasera Brienza. Buonasera a tutti, a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei è appunto un personal fundraiser, raccoglie fondi per una buona causa. Come funziona intanto questa Rete del Dono alla quale lei afferisce, diciamo così? Allora, Rete del Dono è una piattaforma che viene costruita, praticamente raccoglie donazioni destinate ad ONLUS, quindi associazioni no profit. Una volta che si identifica una causa, praticamente Rete del Dono mette a disposizione una pagina in cui il raccoglitore di fondi presenta il suo progetto. Quindi viene presentato il progetto mettendo una descrizione sintetica dal punto di vista descrittivo, e poi è possibile aggiungere anche fotografie, filmati, immagini, certo, che vengono utilizzate per informare in maniera completa l'utilizzatore di questa pagina. Poi la pagina riceve un indirizzo internet e questo indirizzo può essere dal fundraiser proposto a tutti quelli che possono rientrare nella propria rete di raccolta fondi. E di contatti sociali, sostanzialmente diciamo che da questa pagina chi ha appunto una rete sociale sui nostri social network riesce a fare arrivare a tutti i suoi contatti, sì, per esempio questo link. Ci sono anche degli automatismi, praticamente nella pagina è già previsto il fatto che tu la possa pubblicare sulla propria pagina, sulla tua pagina Facebook, oppure c'è un widget che tu puoi mettere all'interno del tuo sito internet o tuo blog se ce l'hai, oppure semplicemente un indirizzo che puoi promuovere attraverso l'utilizzo della classica posta elettronica o anche attraverso un SMS col cellulare. Ecco, d'accordo. E naturalmente la piattaforma mette a disposizione anche tutto il sistema per far circolare il denaro, sostanzialmente. Assolutamente. Uno dei vantaggi fondamentali è che queste piattaforme sono assolutamente trasparenti. Okay. Cioè, chi dona sa quanto la piattaforma trattiene, che è il 5% della donazione, e la piattaforma stessa emette una ricevuta che è valida anche alla fine della deduzione o detrazione fiscale di quanto donato. Quindi la trasparenza è assoluta. Però spesso non è sufficiente questo. Quali sono quindi le caratteristiche del buon fundraiser? Perché qui l'aspetto principale è che c'è una persona, un privato cittadino, non una ONLUS che si mette a chiedere donazioni, ma un privato cittadino per conto magari di un'altra ONLUS. Quindi qual è l'identikit del buon fundraiser? Quali sono le caratteristiche di un buon progetto di crowdfunding? Allora, il buon progetto innanzitutto deve interessare qualche cosa che la collettività percepisca come un bisogno reale delle persone che ricevono il finanziamento. La seconda cosa è che le persone devono avere a disposizione un mezzo facile per mettere a disposizione il denaro che decidono di donare. Poi è importante il fatto che la persona che raccoglie il denaro sia una persona che nella vita sia affidabile e che utilizza queste donazioni per fini che riguardano la collettività e non per se stesso. Insomma, diciamo che è proprio la presenza, diciamo, di una persona fisica che spesso fa parte della propria rete sociale di rapporti umani, che fa da garante a far sì che poi queste iniziative funzionino. È proprio così. E devo dire che gli italiani, quando c'è di mezzo una persona che conoscono e non hanno il dubbio di essere turlupinati da qualcuno, sono molto generosi. Senta, velocissimamente, lei quale progetto sta seguendo e come è andata finora la raccolta? Bene, naturalmente, se no non avremmo chiamato lei, però ci dica un po'. Allora, nel 2013 sono stato il miglior raccoglitore di fondi legati alla Maratona di Milano. Anche questo è legare l'evento, la raccolta ad un evento sportivo, ad una gara, ad una competizione. Ad una sfida, qualcosa che è un impegno per il fundraiser, vero? Sì, Perfetto, io mi sono messo a correre, a fare staffette e maratone che prima non avevo mai fatto, proprio per far capire che ero disposto a mettere in gioco anche il mio tempo e il mio impegno, legando ad una sfida che in questo caso era la Milano Marathon, ma che potrebbe essere una qualsiasi altro evento sportivo, agonistico, o anche semplicemente un'occasione della vita. Faccio un compleanno e decido che regali li voglio destinare ad un buon fine invece che a comprare il solito regalo personale. Ecco, e lei ha raccolto in due occasioni? Io ho raccolto 13.500 euro in tutti e due gli anni, quindi in totale 27.000 euro, che per un ospedale dell'Africa, dove lì il valore del denaro è molto superiore al nostro, devo dire che sono stati un traguardo di tutto rispetto. Grazie allora Antonio Brienza, avanti così. Grazie mille, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.